Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Di questi tempi i beni confiscati alle mafie sono una risorsa potenziale perché le lentezze burocratiche, ci vogliono fino a 17 anni per confiscare un bene, spesso non solo mortificano ma in alcuni casi affossano ripresa e sviluppo. Ben venga dunque l'elenco di commercialisti per la gestione dei beni confiscati alle mafie, di cui potrà avvalersi l'Agenzia Nazionale. Professionisti iscritti all'elenco dei commercialisti potranno revisionare i bilanci delle aziende confiscate, valutare e liquidare le aziende stesse e potranno essere delegati alla vendita di beni immobili. Entro il 20 giugno pioveranno sul tavolo dell'ordine, conseguentemente anche dell'agenzia, i nominativi degli iscritti in possesso dei requisiti richiesti, tra i quali lo svolgimento certificato dell'attività di amministratore giudiziario. L'accordo rappresenta un passo in avanti sulla strada della collaborazione tra l'agenzia e i commercialisti, avviata con un primo protocollo d'intesa a marzo 2011, in attesa che diventi pienamente operativo l'albo degli amministratori giudiziari, istituito a febbraio 2010, ma ancora sulla carta. La firma del protocollo, ha dichiarato il direttore dell'agenzia, Giuseppe Caruso, costituisce una grande opportunità nella lotta alla criminalità organizzata mediante l'aggressione ai beni patrimoniali illecitamente acquisiti e il loro utilizzo ai fini sociali e per fare reddito a beneficio del Fondo Unico di Giustizia. L'impegno dei commercialisti sul fronte dell'amministrazione dei beni confiscati alle mafie, ha replicato il presidente nazionale della categoria Claudio Siciliotti, compie un salto di qualità estremamente significativo. La nascita di un apposito elenco di commercialisti pronti a mettere a disposizione le proprie competenze per un compito così utile per la collettività è la dimostrazione concreta di come la nostra categoria possa essere determinante per il riscatto di intere aree del paese. Ora non resta che passare dalle parole ai fatti. Buona vita e a domani.